a terra, qualche buca qua e là, il mio strisciare a metà. Mi strofino un po' il muso, non mi piace deluso. Cambio bestia paesaggio, voglio un gesso fiorito. Voglio essere un baco dentro il bozzolo d'oro. Adesso formulo frasi, mi ci arredo la vita. Giro filo il mio filo, stringerò ogni cosa. Un ricamo di cuori, una tovaglia da te. E poi già che ci sono, una salvietta bide, una perla ingiallita, qualche cifra imbastita. Posso essere pure un fazzoletto di seta che sventola al vento sorrisi d'amore, dolci passioni, oppure un cuscino col suo morto adagiato in una bara flambè. Voglio essere un barco dentro il bozzolo d'oro. Penso, formulo frasi, mi ci arredo la vita. Giro e filo il mio filo, stringerò ogni cosa. Vado a dormire, devo andare a cucire una nuvola d'oro senza un vero perché. Quanto stretto stasera questo bozzo mio. Io domani lo mangio, mi ci faccio un carré. Per domani son pronto, sono un baco perfetto. Mi sistemo il colletto, qualche colpo diretto. Faccio piano pianino, un buchino vicino. Intravedo già il sole, ora esco e respiro. Ma non faccio più in tempo, le mie ali sognate sono rimaste impigliate. Una larva per sempre, la mia bava è finita. Sono un baco fallito e sono stato bollito.